get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte. Come al solito a me partono sempre le canzoni quando non dovrebbero. Noi siamo il coordinamento lesbiche romane e quella che state per ascoltare sarà la nostra 265esima trasmissione. Andiamo in onda chiaramente attraverso i liberi microfoni di Radio Onda Rossa all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87 e 900 MHz. Chi vi sta parlando è Caterina, che combina sempre guai, ed oggi mi affiancheranno Stefania e Emanuela, ma non saremo sole perché abbiamo una graditissima ospite che parlerà con noi dell'argomento al quale dedicheremo tutta la nostra puntata. Con noi c'è Antonella della cooperativa Be Free e con lei parleremo della recente presenza e attivazione di uno sportello di ascolto per donne lesbiche all'interno della Casa Internazionale delle Donne di Roma. Allora, visto l'argomento, vi ricordo che potete chiamarci qui in radio fino alle ore 22 allo 06 49 17 50, oppure potete inviarci un sms al 339 853 6270 e questo telefonino ricordiamo che rimarrà attivo fino alla fine della nostra trasmissione. Per il momento ci fermiamo un secondo prima di passare la parola ad Antonella e ci ascoltiamo un brano musicale dal titolo Things di Alain Morissette. Even though that it alone does not equate wisdom, you see. Bene, allora sulle note finali di Alain Morisset, spero di aver detto bene il nome, passo la parola a Manuela e ad Antonella. Eccoci qui insieme ad Antonella, alla quale per prima cosa vorremmo chiedere... No, devi cercare di non muovere sotto il filo perché sennò non si sente il microfono. Senti? Sì, adesso sì, ferma, non lo muovere, ecco, più, rimani immobile. Altrimenti il microfono non si sente. E prima di tutto vorremmo chiedere appunto ad Antonella qualche accenno alle caratteristiche generali della cooperativa della quale fa parte, perché immaginiamo che questo progetto rientri, come dire, in un quadro un pochino più ampio. Devi aprire il microfono? No, devi aprire il microfono, forse è chiuso. Aperto. E vai, okay, ci sei, ci anche siamo, tu, grande. Stasera, come dire, un po' diesel, ma piano piano ce la faremo. Ci siamo, allora, di nuovo buonasera a tutte e tutti. Grazie alle compagne di avermi invitata, molto felice di essere qui con voi. Dunque, qualche accenno a BeFree. BeFree è una cooperativa sociale che nasce nel 2007. Quindi è una cooperativa giovane, ma nonostante i pochi anni di nascita, devo dire che è una cooperativa che ha già fatto moltissimi progetti e infatti è una cooperativa che si occupa di violenza, tratta e discriminazioni contro le donne ed ha all'attivo dei servizi molto importanti che riguardano appunto le donne sul territorio di Roma. Sportelli, sì, sportelli antiviolenza. Accenno ad alcuni appunto sportelli che noi abbiamo per dare, come dire, un po' il contesto generale attraverso cui poi potremo parlare più nello specifico di questo nuovo sportello che è il protagonista della serata. Questa nostra serata. Allora, uno sportello antiviolenza, uno degli sportelli che gestisce BeFree, si trova all'interno del pronto soccorso generale del San Camillo di Roma e si chiama Sportello Donna. Uno sportello che fino a qualche mese fa era aperto a 24, adesso fa un orario ridotto perché purtroppo da gennaio è finita una convenzione che stiamo cercando di far ripristinare. Comunque è aperto. Sì, è ancora attivo, okay, con un orario ridotto dalle 10 alle 5 del pomeriggio e si trova, ripeto, all'interno del pronto soccorso generale del San Camillo. Un altro sportello antiviolenza, sempre H24, quindi con orario H24 sempre, mattina, sera, pomeriggio, notte, si trova invece a Cinecittà e si chiama SOS Donna, è sempre uno sportello antiviolenza gestito dalla cooperativa. Uno sportello che si trova all'interno del CIE di Ponte Galeria, il centro di identificazione ed espulsione per immigrati, chiaramente il nostro sportello si trova nella sezione femminile del CIE di Ponte Galeria ed è aperto soprattutto per le donne che si trovano appunto nel CIE e che hanno bisogno di essere sostenute soprattutto in un percorso di fuoriuscita dalla tratta, quindi all'interno di questo sportello noi incontriamo per lo più donne che provengono da percorsi anche di tratta, sfruttamento della prostituzione e o lavorativa. E all'attivo adesso abbiamo questo nuovo sportello che è appunto, come dicevo prima, il protagonista della serata, quindi Coming Out dalla Violenza, è aperto da pochissimo, avrà la durata di un anno ed è situato all'interno della Casa Internazionale delle Donne a Via della Penitenza 37 ed è anch'esso uno sportello antiviolenza per donne lesbiche che subiscono violenza. Ecco. Eccomi qui, sono Stefania. Ciao Stefania. Allora, ti volevamo chiedere. Sì. Allora, sicuramente il fatto che le donne in generale siano oggetti di violenza è tristemente noto. Sì. Ma noi sappiamo che le donne spesso sono vittime, che anche le lesbiche spesso sono vittime di analoga violenza. Sì. Questa forma di violenza noi la identifichiamo e la definiamo col termine di lesbofobia, perché è un po' meno generico come parola. Che ne pensi? Sì, allora penso che sicuramente, abbiamo pensato a uno sportello per donne lesbiche che subiscono violenza perché, come dire, dall'esperienza appunto di BeFree all'interno degli sportelli antiviolenza abbiamo maturato innanzitutto una competenza all'interno della violenza di genere e questo è il nostro specifico. all'interno di questa competenza e quindi all'interno dei nostri servizi noi abbiamo incontrato tantissime donne che provenivano da percorsi di violenza, che purtroppo venivano da vissuti di violenza agita da uomini, però come dire, e qui abbiamo appunto potuto affinare la nostra competenza nella violenza di genere, però all'interno di questi percorsi e quindi potendo imparare che cosa voleva dire violenza sulle donne, che cosa fosse la violenza di genere, quale dinamiche scatenasse, quale mostruosità potesse dare forma, abbiamo avuto però delle richieste di aiuto, di sostegno da parte di donne lesbiche che andavano proprio a richiederci un sostegno di tipo diverso, un tipo di aiuto diverso, che veniva però anche da una paura differente, la paura di essere, come dire, stigmatizzate due volte, certo, di provare una paura differente da quella che può provare una donna che è vittima di violenza da parte di un uomo, che è una paura che appunto può essere ha in sé una doppia angoscia, che è quella proprio di essere isolata due volte, cioè provenire da un isolamento che è quello della violenza, che è la violenza che scatena la violenza di genere, quindi la violenza di un contesto che di per sé discrimina le donne, la violenza che poi nello specifico avviene all'interno di un contesto familiare, che è quello diciamo più conosciuto per chi si avvicina alla violenza contro le donne. In più, da parte di donne appunto lesbiche che noi avevamo avuto modo di incontrare all'interno dei nostri servizi, avevamo questa richiesta di aiuto che veniva fuori però anche dalla come dire, dall'incapacità da parte di altri servizi di non averle ascoltate perché non adeguatamente avvicinate in modo giusto, appunto, cioè queste donne si ritrovavano doppiamente isolate, quindi isolate non solo da un contesto sociale, ma isolate anche da parte di servizi che non avevano dato loro il giusto appoggio. Quindi io farei rientrare la lesbofobia anche in questo contesto, se dobbiamo parlare di violenza. Quindi lo sportello nasce anche da questa esigenza, sì. Perché in qualche modo nel vostro percorso sono capitati dei casi di donne lesbiche che hanno chiesto aiuto in casi, sì, di violenza. Sì, sì, sì, assolutamente. Lo sportello nasce da questo, cioè nasce dal progetto di creare un luogo dedicato, certo, con una metodologia dedicata. Ma sì, infatti, scusa se ti interrompo, il discorso che noi come lesbiche portiamo avanti è legato tantissimo all'invisibilità che ci circonda, c'è questa sorta di pesantezza del silenzio, che è un elemento determinante che fa originare una serie innumerevoli di cose che sono conseguenziali e che fanno sì che le lesbiche siano discriminate a prescindere. E la violenza, certo, di cui parlavamo noi chiaramente non è soltanto quella fisica, come appunto dicevi tu, no? La pesantezza, certo, del silenzio, cioè il fatto di non essere contemplate da nessuna parte ti fa sentire al di fuori di un contesto a prescindere da tutto il resto. E infatti anche la preparazione del personale che si trova in questi sportelli, non il vostro in modo particolare, ma diciamo quelli delle strutture che dovrebbero accogliere, non c'è questa preparazione. Calcola una cosa semplicissima: anche se una va a un semplice consultorio, la prima domanda che ti fanno: usa contraccettivi? Perché danno per scontato che tu sei eterosessuale a prescindere. E anche cattolica, dire, aggiungere. Sì, capito. Quindi. E bianca. Sì, certo. Certo. Diciamolo, sì, tutto. Dalla mia esperienza vorrei portare solo un piccolo esempio. Io sono stata in un consultorio all'AIED quando avevo forse 20-21 anni. Non portavo un caso di violenza, però andavo a parlare con una psicologa che, sentendo la mia problematica, dicendo appunto, affermando penso di essere lesbica, ha riso e ha detto: no, senza conoscermi, senza sapere nient'altro praticamente, e quindi è subito una negazione, già quella una forma di violenza. Certo, il disconoscimento, certo, che si trova a dover subire una donna, quindi in un contesto del genere dover raccontare di aver subito una violenza diventa ancora più difficile, ancora più pesante, cioè, ancora più pesante, vergognoso, insomma. Esatto, sì, cioè, quindi si aggiunge al senso di vergogna che già una donna che subisce violenza porta, certo, dentro di sé, e quindi rende il percorso di fuoriuscita da una violenza ancora più difficile, per cui ci vuole un luogo dedicato, ci vogliono delle persone professionalmente preparate e delle persone che sanno che hanno di fronte delle donne che hanno questo tipo di specificità e di competenza, certo, certo, assolutamente. E questo sportello che orari ha? Abbiamo detto, e lo ricordo, che è alla Casa Internazionale delle Donne in, sì, Via della Penitenza. Via della Penitenza, sì, e l'entrata quindi quella che è quella laterale. Di lato, sì, sì, sì. Allora, gli orari dello sportello sono, dunque, i giorni di apertura sono il lunedì mattina e il giovedì pomeriggio. Il lunedì mattina è aperto dalle 9.30 alle 13, mentre il giovedì pomeriggio è aperto dalle 15 alle 19.30. Quindi sono queste due giornate. E c'è un di apertura. Telefono? Sì, certo. Così iniziamo, iniziamo tutto, subito, esatto, con, esatto, l'informazione fondamentale. Sì, allora il numero dello sportello è 06 64 76 07 99. Se lo vuoi ripetere tu. Ecco. Allora, il numero dello sportello, e immagino ci sia una segreteria telefonica, quindi insomma, qui quando si chiama si chiama. Si chiama, no, no. Non abbiamo pensato alla segreteria telefonica, ma è un ottimo suggerimento. È un ottimo suggerimento. Il bello della no, perché te lo dico, ma... perché anch'io ho seguito per anni e anni una linea. Ah, esatto, abbiamo seguito Caterina, esatto, linea lesbica, amica, ecco, che tu dici, guarda, una segreteria telefonica che, sì, dà, certo, l'orario di apertura, esatto, e in caso di urgenza, cioè, insomma, sì, però chiama, chiaramente, comunque, per quanto riguarda la difficoltà la difficoltà delle segreterie telefoniche, chiaramente dipende dal fatto che praticamente è difficile lasciare un messaggio, no? Però già se sulla cosa iniziale ci sta l'orario di apertura, uno, esatto, dice sì, non ho sbagliato, magari, numero, esatto, dare un riferimento, esatto, in quel senso, io, esatto, la pensavo la segreteria, sì, dare un riferimento rispetto all'orario e al giorno di apertura, quando non ci siamo, sì, non potendo tenerlo aperto tutti i giorni, perché purtroppo, certo, questo, certo, è uno sportello che rientra in un progetto, in un bando che è stato vinto con un ente, per cui, certo, chiaramente non, immagino, abbiamo la possibilità di aprirlo, certo, tutti i giorni, non ci sono le possibilità economiche, ahimè, di aprirlo, certo, tutti i giorni, però in effetti, insomma, la segreteria potrebbe dare un'ulteriore informazione, certo, sui giorni di apertura, che sono purtroppo per il momento solo il lunedì e il giovedì. Poi speriamo che, no, tra, vabbè, un anno, che la scadenza del progetto possa essere di nuovo incrementato e che si possano innovato, trovare, certo, nuovi orari e nuovi momenti per. Allora, per ripetiamo un attimo i giorni e il numero e poi mandiamo una canzone, così interrompiamo un secondo. Allora, il numero è... Non hai mosso il cavetto, ho, e secondo me... Cavetto, sì. Ecco, così, senti, vai, devi stare fermo, allora, immobile, non de muovere. Oddio! Allora, 06 64 76 07 99, lunedì e giovedì, lunedì mattina 9.30 13, giovedì pomeriggio... 15:19:30. Perfetto. Ok, allora mandiamo Tanita Tikaram con il brano Amore sì. Ci piace. It was a lonely summer. I have been your shelter, following your footsteps. Will it be my first regret? Sorry if I'm foolish, making myself secrets. Seems to come between us, and we always leave them there, my child. Always leave them there. Do you break my heart? Do I have to go? Does it mean we love?

ed è secondo me quasi, quasi provocatoria come cosa, quindi un'ottima provocazione secondo me. Ce lo vuoi dire come si chiama questo sportello, Antonella? Coming out della violenza. Coming out della violenza. Infatti noi quando ti abbiamo invitato questa nostra trasmissione, diciamo che è stata programmata un po' di tempo fa, almeno da quando c'è stata la presentazione alla casa di questo sportello, eravamo molto come dire, delle sensazioni contrastanti, perché da una parte ci auguravamo che tu potessi darci delle notizie un pochettino più specifiche, che magari fosse venuta qualcuna, e dall'altra parte chiaramente speravo non venisse nessuna. Però sai, le considerazioni che ci vengono da fare a queste due nostre sensazioni sono comunque pesanti. Io stasera ho usato volutamente questo termine di pesantezza, perché il fatto che una donna lesbica abbia bisogno di uno sportello è pesante. Certo. Se non viene, sappiamo che è pesante lo stesso, non perché le donne lesbiche non subiscono violenza, ma perché non hanno la forza, non hanno il coraggio, non hanno la possibilità di potersi dichiarare come soggetti, esatto, di violenza o vittime. Certo. E quindi, cioè, è pesante, tutto questo è pesante. Non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa tu, dirci. Sono molto d'accordo con quello che tu stai dicendo, Caterina. Tra l'altro, mentre parlavi mi ricordavo che avevo la tua stessa sensazione quando ho iniziato a lavorare. Io sono anche un'operatrice dello sportello donna che si trova dentro al pronto soccorso del San Camillo, che è sempre gestito, per chi non era collegato prima con noi, collegata prima con noi, sempre gestito da Be Free. E pensavo, oddio, da una parte vorrei che non venissero tutte queste donne, esatto, che noi incontriamo al pronto soccorso, però dall'altra, come dire, ero sommersa da queste sensazioni contrastanti, no? Perché da una parte appunto avrei voluto che non si rivolgessero a noi tutte queste donne, però dall'altra parte pensavo comunque queste donne si sarebbero, esatto, rivolte al pronto soccorso, comunque ci sarebbero andate e avrebbero avuto bisogno, e soprattutto comunque avrebbero subito violenza, capito? Esatto, però in un'altra situazione questo sportello non ci sarebbe stato, quindi loro non, certo, avrebbero potuto avere la possibilità di rivolgersi a un servizio fatto apposta per accoglierle e per dare loro un sostegno. Quindi come dire, il fatto che debbano esistere questi servizi ci conferma che, e ci ricorda soprattutto a noi che ci lavoriamo, ma anche a chi come dire trasmette queste informazioni, che la violenza esiste e che va combattuta, e che va affrontata, e quindi come dire questo ce lo ricorda e rinnova in qualche modo la nostra sofferenza nel ricordarcelo. Però nello stesso tempo ci ricorda anche che per fortuna, grazie anche al nostro lavoro sul campo, ma anche al lavoro che facciamo e che fate voi di sensibilizzazione, di lotta, di politica, ci ricorda anche che i servizi si possono costruire, si, certo, possono rinnovare, che possono entrare in rete e che insieme si può fare un grande lavoro, certo, e che questo può aiutare a trasmettere l'informazione, perché come dicevi tu, tante donne magari non arrivano a sapere che c'è uno sportello a cui rivolgersi, anche perché semplicemente forse non lo sanno, certo, ancora, certo, perché l'informazione non è arrivata, perché magari non sanno dove andare, non sanno a chi rivolgersi, non solo, certo, perché non hanno il coraggio di farlo. Quindi già il sapere che esiste un numero, che esiste un luogo, esiste la possibilità, che ci sono donne che sono ad ascolto, esatto, ti mette la piano piano, certo, esatto, cioè, certo, sapere che c'è la possibilità di farlo, poi chiaramente ti mette di fronte alla decisione di poterlo o di non poterlo fare, però intanto sai che lo puoi fare, cioè che c'è quel posto, che c'è quel luogo, e già non è poco. Certo. Dopodiché noi siamo qui, noi di Be Free, pronta ad accoglierle e a fare il nostro lavoro, voi a continuare chiaramente ad ospitarci, certo, quando vuoi, Antonella, lo sai, politicamente queste cose meravigliose che continuano a dire appunto che noi ci siamo, resistiamo, certo, e continuiamo a fare delle cose importanti per le donne e per le lesbiche, e questo speriamo che insomma possa portare a dei risultati. Quindi, mi sarebbe piaciuto poter raccontare delle esperienze, ancora non ce ne sono, mi auguro che magari la prossima volta che ci vedremo per una chiacchierata, un'intervista, ma non tanto per, come dire, per la non è assecondando questa tua prospettiva, non è che ci sentiamo come porta a porta che va lì e fa il plastico della violenza, no? Ecco, no, il discorso è che se allora che ci sia la violenza sulle donne e sulle lesbiche è innegabile, è un dato di fatto, da questo purtroppo non si può prescindere. Il discorso che si aprano delle porte e ci siano delle donne pronte ad ascoltare, per me significa già tanto, perché certo. Il nome di questo sportello, Coming Out sulla violenza, io prima dicevo una provocazione, a me mi viene la pelle d'oca a nominarlo, sì. Capito? Certo. Perché il primo coming out lo devi fare a te stessa come lesbica per riconoscerti, capito? Cioè il discorso sull'identificazione è un discorso estremamente complicato per una donna che scopre di essere lesbica, perché non ha riferimenti assoluti, non solo non ha riferimenti, ha tutta una società che gli dice che dovrebbe essere un'altra cosa. Certo. Chiaro? Quindi se da questa situazione nella quale tu, se sei fortunata, vai avanti, resisti e diventi più forte, ma se non lo sei, ti devi vivere l'imbarazzo, la vergogna, e quindi paradossalmente se qualcuno usa violenza su di te quasi quasi pensi di meritartela. Quindi abbandonare questo aspetto è fondamentale, quindi ben venga che ci sia uno sportello dove io posso dire chi sono, quello che mi sta succedendo e chiedere di aiutarmi. Aiuto, a dire basta. Certo. Quindi è un lavoro di tutto rispetto. Io sono stata contentissima che questo sportello si sia aperto, insomma. E mi illudo, ecco, che se non è venuta ancora nessuna, diciamo che queste due settimane non hanno subito violenza. Finiamola così, perché sennò mi sento male, capito? Hai ragione. Okay. Sono d'accordo con te. Okay. Allora, io vorrei... Ringraziamo... Sì, vorrei semplicemente mandare un'ultima canzone e se mi permettete, lo dico semplicemente a Manuela e a Stefania che sono qui. Adesso, se la riesco a trovare, volevo dedicarla ad Antonella, a Bifri e allo sportello. Okay? Ci uniamo nella dedica, io e Stefania, direi. Ok, dopo ci risentiamo un attimo per i saluti. Questa è dedicata. Okay. Grazie. Ad Antonella. Dunque, eccoci qui e noi ci avviamo alla conclusione, però prima di passare ai saluti io vi ricordo che questo sportello alla Casa Internazionale delle Donne in Via della Penitenza, quindi all'ingresso di lato, è aperto il lunedì dalle 9.30 alle 13 ed il giovedì dalle 15 alle 19.30. Vi ripeto il numero di telefono, piano piano così avete il tempo di prendere nota, non si sa mai, 06 64 76 07 99. Detto ciò, possiamo passare saluti. Sì, io volevo anche ricordare un'altra cosa che chiaramente mi sono scordata presa dall'argomento della serata. Però allora il CLR sta utilizzando lo spazio del blog del martedì femminista e lesbico e su questo blog c'è uno spazio dove noi possiamo caricare le nostre trasmissioni. Noi abbiamo fatto 11 anni di radio, quindi sono proprio tante, non le troverete tutte, stiamo andando a ritroso, quindi cominciamo dalle ultime e stiamo andando indietro, per il momento saranno soltanto una ventina, sicuramente domani, Santa Caterina, domani magari proprio no perché è proprio festa, diciamo da dopodomani potrete anche trovare quella di oggi e quindi va bene. Allora, se non volete riascoltare questa trasmissione potete andare sul blog della radio e cliccare sullo spazio dedicato al CLR e troverete sicuramente questa e le altre trasmissioni. Noi vi salutiamo, ringraziamo in stereofonia Antonella. Certo. Grazie a voi. Allora, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. A presto. Allora, parto con la sigla. Oh yes. Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa.